Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Questo scudetto non è scontato e è ancora da lottare, da soffrire e da combattere. Abbiamo la fortuna che siamo a mano di noi stessi. Sappiamo se facciamo 11 punti nelle prossime 6 partite e andiamo all'obiettivo, e non penso che ci sia qualcuno così superficiale da darlo per scontato. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quindi praticamente ricapitoliamo: per il Manchester City non esiste il fair play finanziario e tutto si risolve con una multina da 10 milioni di euro che è come 10 centesimi per me, e tutto si risolve. Grandioso, ottimo. If Man City is not guilty of it, I think to be punished with some million is a disgrace as a decision. If you are not guilty, you are not punished. By the other way, if they are guilty, you should be banned. So in any case, the decision is a disaster. The heart is a blue. I don't wish anybody anything bad. And stuff. I said I'm happy that City can play Champions League, but I don't think it was a good day for football yesterday. If we start doing the richest people or countries can do what they want in football, that would make the competition really difficult. And I think that would lead automatically then in kind of a world super league. And you're not moving anywhere. You thought you found friends. Jose and all the managers should know that we were damaged. We should be apologized. What we have done is correct. And 3 independent judges said this. Yes, it was a good day for the football. Mourinho, sentenza vergognosa, Klopp, brutto giorno per il calcio. Guardiola, beh, abbiamo fatto tutto correttamente, batteteci sul campo se siete capaci. Scalzi tra top manager in Inghilterra. Ma Pierluigi Pardo, perché è il tuo pensiero oggi? Beh, per l'Atalanta ancora una volta, non tanto per i gol, per i 93 gol o i 110 gol stagionali, ma è per la quantità di sostituzioni che l'Atalanta ha fatto ieri, fra l'altro incasinando non poco la mia squadra del fantacalcio. Perché vincere 6-2 contro il Brescia ci poteva anche stare, ma la profondità di questa rosa, la possibilità di permettersi per parti due nomi, Palomino, Toloi, Gomez, Idice, questo ci dà il senso di che cosa è diventata la... Esatto, Muriel, sappiamo anche perché, però voglio dire, questo ci dà il senso di che cosa è diventata Gosens, che era bloccato nella rifinitura contro la Juve, di che cosa è diventata l'Atalanta. E io mi rifaccio al discorso di Balzaretti a fine partita l'altro giorno, vediamo come finisce questo campionato, ma il prossimo campionato, se l'Atalanta decide di puntare, secondo me può giocarsi lo scudetto, può, poi magari non lo vince. Vediamo però chi va e chi viene. Vediamo chi va e chi viene. Ciao Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Non ci sente, ma quanto volevo chiedergli quanto può valere Malinowski adesso al fantacalcio, magari lo tra l'altro. Ma quanto vale Malinowski? Giocatore pazzesco, tra l'altro, Malinowski. Senti, invece, in Inghilterra abbiamo sentito nella copertina, sì, Volano gli stracci tra top manager, e li abbiamo sentiti nell'ordine: sentenza vergognosa, dice Mourinho, poi Klopp dice vabbè non ho niente contro il disaster. If they're guilty, why they don't pay the fine? No, ha ragione Mourinho, secondo me, al di là del fatto che sappiamo che in tutte le forme di giurisprudenza, insomma in tutti i giudizi a qualsiasi livello, esiste sempre poi il principio della pena giusta, quindi la pena pecuniaria in questo caso è uno stadio sotto, un bello stadio sotto chiaramente la squalifica. La pena pecuniaria che tra l'altro c'era già, 30 ridotti a 10 per non aver collaborato alle indagini. Esatto, quindi però il tema è vero, cioè se comunque questa multa c'è, cioè, se non è una soluzione piena, allora vuol dire che è successo qualcosa. E allora è stato deciso di far giocare il Manchester City, e va bene, può andare bene, può essere positivo anche per lo spettacolo, però sicuramente, come dicevo l'altro giorno, dal punto di vista dell'esempio, dal punto di vista della, appunto del futuro e del senso di giustizia, rimangono delle ombre, ecco. Poi... Sì, no, ma rimangono delle ombre sull'intero sistema, dovrebbe esserci adesso, esatto, Andrea Ricaro. Esatto. Andrea, ci sei? No. Ma come no? Io sono molto amico con Andrea, ogni tanto gli presto anche il telefono, quindi facciamo questa gli hai prestato il tuo telefono. No, d'altra parte i soldi del City, insomma, hanno fatto anche ricchi gli altri club, quindi sappiamo com'è il sistema a dover essere, insomma, ripensato probabilmente. Klopp dice anche, vabbè, allora vogliamo togliere tutte queste cose, si va verso una Superlega di 10 iperclub dell'iperuranio, esatto, che si giocheranno tutto. E sono sempre quelli, come col sistema delle franchigie. No, infatti ripeto, la soluzione lascia il vago sospetto che sia stato fatto un trattamento di favore per un club importante che sicuramente ha inserito nel sistema economico del calcio, e questo è sicuramente una cosa positiva, molti denari negli ultimi anni, e che però probabilmente qualcosa di sbagliato l'aveva fatto, ecco, questa è la sensazione forte che si ha. Sì, la sensazione è che per vincere servono molti soldi, oppure devi chiamarti Atalanta per l'appunto. No? Per quello sì, quello. È ancora meglio. Senti, perché... cosa ti aspetti dalla giornata di questa sera? Io ho la sensazione, ne parlavo prima con il comune amico Cruciani, che per la Juventus ci sia aria di match point a Reggio Emilia sul prato di un Sassuolo che vola, ma che insomma potrebbe dare l'ultimo sussulto al campionato. Sì, allora io lo dicevo ieri e lo ribadisco, a me la Juve l'ho commentata nelle ultime due partite con Milan e Atalanta, l'avevo vista contro il Torino, non sta convincendo, proprio non mi sta convincendo per tanti motivi, perché è una squadra rispetto ai momenti migliori degli ultimi anni molto fragile, molto meno sicura e molto meno concentrata. Detto questo, e che dal punto di vista del gioco non è cresciuta, detto questo, adesso veramente è un'occasione enorme, cioè proprio è la voce del padrone stasera, contro una squadra informissima, ma che forse potrebbe anche per leggere i grandi numeri, avere un calo rispetto alle ultime straordinarie prestazioni. Io credo sia complicato stasera. Cioè, complicato. Credo, tra l'altro, qualche tifoso della Juve l'ha sottolineato, per me, sai, io sono l'uomo meno complottista al mondo, il Sassuolo ha fatto un turnover assolutamente logico, assolutamente ragionato nel match contro la Lazio, che per me è proprio legittimo, quindi io non ci vedo nessuna polemica, però siccome qualche volta ci sono state polemiche in questo senso, quindi arriva molto bene a questa partita, perché è riuscito anche a far riposare o comunque a gestire i minutaggi dei giocatori. Io aspetterei, ti ripeto, aspetterei stasera, perché poi è chiaro che se stasera la Juve vince, anche Juve-Lazio diventa una partita molto diversa. È chiaro. E poi la Lazio, perché sicuramente, insomma, non se la porta da casa. Non se la porta da casa, Udinese viene dalla sconfitta interna, non è ancora salva, però insomma la Lazio ha un solo risultato questa sera, quindi no, ma chiaro, ma poi è una serata interessante. È lo snodo, perché se la Juventus dovesse perdere con il Sassuolo, a quel punto fai i conti e dici, questi fanno un punto in tre partite, la prossima è Juventus-Lazio, con la Lazio potrebbe essere a meno 5, l'Inter a meno 5, ma ovviamente sono tutti discorsi vari ed eventuali. Oh, Bomber Hubner, buongiorno. Ciao. Buongiorno a voi. Ciao. Buongiorno a voi. Senti, quanto ti piacerebbe essere al posto di Zapata in una squadra da 93 gol in 33 partite? Ma sai, purtroppo, perché da Belfiano devo dire che purtroppo devo fare i complimenti all'Atalanta, perché è quella che negli ultimi due anni sta dimostrando il miglior gioco in Italia. È una squadra che si conosce, è una squadra che merita essere dov'è. E anzi, io dico che potrebbe essere una mina vagante in Champions, perché il gioco dell'Atalanta in Europa è un gioco che ti può dare soddisfazioni, per cui starei molto attento all'Atalanta, nonostante tutto. Lo dico non tanto d'allegro, perché ripeto, da bresciano non è che sono felicissimo, però sinceramente bisogna fare i complimenti a questa Atalanta. Brescia si è squagliato, Dario. Il Brescia si è squagliato del tutto dopo... Purtroppo male, io non mi aspettavo qualcosina in più, ecco, così ero convinto che la Rosa dopo un ottimo campionato in Serie B non avrebbe avuto le carte per far bene in Serie A. Ecco, sicuramente non da Europa League, però sicuramente una salvezza da ottenere sul campo, sicuramente sì. Un po' sì. Sono deluso, ecco, devo essere sincero. E sarebbero serviti i gol del desaparecido Balotelli, ma questo l'abbiamo detto molte volte. Il Brescia ha scommesso moltissimo su di lui ha scommesso moltissimo sul Brescia, la scommessa è stata persa da entrambe le parti, Pierluigi. Sì, assolutamente. Sì. Vai. No, dico scusa, però sai, io quest'anno ho visto 3-5 volte il Brescia, devo dire che Balotelli, sommato, ho visto l'impegno, la voglia, però io dico sempre che un giocatore per far gol deve anche essere messo in condizione, ecco, perché se vediamo le ultime 6 giornate, parlavamo di un Belotti in grave difficoltà, nelle ultime 5-6 giornate il Torino ha cominciato a giocare un po' meglio e abbiamo visto che Belotti sta rifacendo gol, per cui credo che l'attaccante è bravo anche quando la squadra lo mette in condizione di far gol, non può risolvere la partita da solo, per cui sicuramente Balotelli avrà le sue colpe, però bisognava magari metterlo più in condizione e tirare in porta di fare gol. Pier, dicevi? Sì, allora ha cominciato con quella squalifica, partenza handicap, la squadra non l'ha messo particolarmente in condizione, poi ci sono le sue responsabilità, nel senso che comunque i giocatori in qualche caso hanno la forza di tirarsi fuori dalle situazioni difficili e Balotelli non ci è riuscito, quindi noi commentiamo quello che vediamo e quello che vediamo è un'altra occasione persa, c'è poco da fare, insomma, sì. Al di là del fatto che non era facile, che quello che dice Dario è assolutamente vero, perché insomma l'esempio di Belotti è perfetto, il Torino con alti e bassi, con una classifica che non è ancora ovviamente serena, con una partita importantissima stasera, ma nelle ultime partite è tornata ad offrire qualche situazione a questo attaccante che sta cominciando a rispondere con questa striscia di gol consecutivi. Vedi, quindi d'altra parte vedi come gli attaccanti sono così, ne abbiamo qua uno che ha fatto una valanga di gol, gli attaccanti sono così. Quanti ne hai fatti? Settimo marcatore ogni epoca in Serie B, tra l'altro, Dario. Quanti ne hai fatti di gol? No, sinceramente non ho mai contato, mi dicono più di 300, nei professionisti più di 300, però devo essere sincero, non li ho mai contati, non sono mai andato a vedere tanto nei computer, perché quando uno ha posto per la coscienza i numeri contano relativamente. Forse noi dovremmo fare come Dario Hubner e non lasciarti a casa mai a consumare le unghie. Vabbè, i gol però contiamoli. Vai su wiki, Genta, dai. So che in Serie A c'ho quasi la media di quasi mezzo gol a partita, quello sì, quello me lo ricordo, sono in tanti, per cui te lo posso assicurare, ecco, per cui è una gran soddisfazione. Quanti ne avresti fatti nell'Atalanta? So che da Bresciano, quanti ne avresti fatti? Ma no, ma sai, in Atalanta c'è un gioco bellissimo, io li vedo, ripeto, soffro perché vedo le maglie nell'azzurro e voglio vedere le maglie azzurre con la V bianca. Però bisogna essere onesti, bisogna fare i complimenti perché stanno facendo un gioco eccezionale, è sempre un divertimento vedere giocare. E quest'anno sono partiti male, perché se partivano un po' prima giusti, quest'anno avrebbero sicuramente lottato per lo scudetto, perché ripeto, fanno un gioco veramente bello. Bisogna fare i complimenti a Gasperini, bisogna fare complimenti ai dirigenti del tuo sportivo che va a cercare giocatori che non costano tanto ma sono degli ottimi giocatori, per cui nonostante tutto mi dispiace molto, ma devo fare i complimenti. A detti stretti, Dario, devo fare i complimenti. Secondo me è vera questa cosa che veramente nella prima parte della stagione questa squadra ha pagato un dazio alla Champions, un dazio che poi è stato assolutamente ben riposto, perché poi quello che si sta regalando in Europa è clamoroso, però sicuramente ha buttato via dei punti nella prima parte della stagione, anche nella seconda parte della stagione. Come fai a immaginare anche nei sogni più bagnati di arrivare a fine stagione così? Cioè, credo sia fisiologico, no? Tutti abbiamo detto, sì, sì. Girone praticabile in Champions. Comunque è chiaro che ha investito molto su quello, perché mai puoi immaginare di evitare fino a questo punto. Però io penso che sia anche un percorso di crescita, cioè credo che oggi l'Atalanta, se giocasse oggi il girone di qualificazione della Champions League e il campionato, avrebbe già la forza mentale e fisica per poter gestire le due competizioni. Io credo che al di là del fatto che l'inizio in Champions non è stato facile, che c'era forse un po' di emozione, mi ricordo l'esordio drammatico con la Dinamo, ma insomma al di là di questo secondo me l'Atalanta di oggi è diversa da quella di 7-8 mesi fa, ha acquisito una consapevolezza e c'è stata una crescita di giocatori enorme, E ripeto, poi quello che viene sottolineato poco, lo sottolineavo anche l'altro giorno durante Juve-Atalanta, per me è proprio la profondità della rosa. Cioè ormai l'Atalanta ha una quantità di giocatori, non solo qualità, ha una quantità di giocatori qualitativi veramente da grandissima squadra. Allora, fermiamoci un istante, Dario, rimani con noi ancora un po', torniamo subito. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Vorrei chiedere a Dario Hübner per quale allenatore attuale ti piacerebbe giocare. No, ma ci sono diversi, bravi. Io penso che Gasperini ha un ottimo gioco. De Zerbi è un altro mister che mi piace. Ma anche Inzaghi, Simone Inzaghi, con la Lazio, fino a un mese fa faceva un grandissimo calcio. Credo Immobile ha avuto a disposizione ogni domenica 5-6 conclusioni a rete, per cui è un allenatore che, poi, essendo anche un ex centravanti, per cui li metteva in condizioni. Sì. Per cui ci sono dei bravi allenatori che in Serie A. Fare il centravanti. Sì, questa cosa qui, scusa, questa cosa che ha detto en passant Dario è secondo me fondamentale per gli attaccanti, no? Cioè, quante occasioni da rete nitide hai? E la Lazio, per buona parte della stagione, finché la condizione fisica è stata all'altezza, giocava per Immobile. Poi Immobile aveva i suoi meriti che rimangono. E io trovo un po' incredibile che ci sia questo sbalzo di umori che leggo, no? Perché veramente la Lazio comunque andrà a finire, ha fatto una stagione incredibile e dovrà essere ricordata come una stagione incredibile, perché il lavoro fatto da questi ragazzi è veramente pazzesco. E però ecco, tornando a l'aspetto di quante palle gol nitide a disposizione dell'attaccante è fondamentale, e la Lazio giocava per Immobile, che ha fatto veramente il suo. Sì, puoi anche avere Luis Alberto in condizione dietro le spalle, certo. Aiuta. Aiuta abbastanza. Com'è invece fare il centravanti nell'Inter, Dario? Ma sai, ma credo che quest'anno sta facendo bene. Io penso che Lautaro e Lukaku, una coppia che sta giocando bene insieme, si trovano bene. Vedo che in molte occasioni, anzi in tantissime occasioni, non sono mai egoisti, anzi si cercano, si fanno gli assist a vicenda, per cui sai, quando una coppia va d'accordo, una coppia si gioca bene insieme e non ci sono gelosie, credo che sia la cosa migliore. Poi perché deve esserci, ci sono anche gli altri giocatori, perché abbiamo visto Candreva, altri giocatori che devono, sì, mettere in condizione, ecco. Sì. Per cui, però una coppia che sta facendo bene, non possiamo dire niente. Sì, beh, se l'altra sera notavo, Pier, come l'Inter gioca in modo diverso, molto diverso, quando c'è Lukaku e quando Lukaku non c'è. Sembra una banalità. Sanchez ha giocato una grande partita, però è un'altra cosa quando hai Lukaku e quando... Alla Sanchez secondo me è mancato tanto, e ha ragione Antonio Conte quando lo sottolinea, che non esenta secondo me da analisi sulla stagione dell'Inter e da un po' di delusione su questo ultimo periodo. Poi vediamo come andrà a finire, però è evidente che Sanchez avrebbe rappresentato un'alternativa di grande livello. Cioè l'idea dell'Inter dover andare avanti tutta la stagione lì davanti con quei due, con il solo Esposito a fare le rotazioni, non può essere sottovalutata. È stato un problema, un problemone per l'Inter. E Lukaku, sai, ne abbiamo parlato mille volte, è un attaccante secondo me fa tantissime cose. Va visto secondo me proprio in termini quantitativi, come apporto complessivo che lui dà alla squadra, perché ci sono i gol che sono tanti, c'è anche qualche gol sbagliato. Ecco, io questo voglio chiedere a Dario, perché mi sembra molto interessante. La mia sensazione è che Lukaku sì, qualche gol lo sbaglia pure, ma credo sia fisiologico per un attaccante che spende così tanto. Esiste questa distinzione tra attaccanti, quelli che giocano solo per il gol da area di rigore e quelli che invece lavorano per la squadra, e questo lavoro per la squadra in qualche circostanza ti toglie un po' di lucidità, proprio legittimamente, ti toglie fisiologicamente un po' di lucidità sotto porta? Ma sicuramente, poi oggi giocando ogni tre giorni sicuramente il recupero non è mai ottimale, è un giocatore che gioca per la squadra. Io ho avuto sempre la fortuna di avere dei trequartisti tipo Paolo Poggi, così, che faceva tantissimo il mio ruolo di allaccio col centrocampo. Cioè io pensavo a far gol e basta, e che in fase difensiva correvo poco, per cui Lukaku è già un giocatore che cerca di andare incontro, fa le sponde, fa movimento, fa reparto anche da solo, per cui dico che Lukaku è già un giocatore che può fare reparto da solo. Lautaro è già uno che per me reparto da solo fa fatica a farlo, perché è un uomo di profondità, un uomo di corsa, però non è uno bravissimo a tenere la palla, a farmene sulla squadra. Ecco, Lukaku lo vedo più completo, anche se sono due fortissimi, e forse Lautaro ha più gol nel sangue, però Lukaku come primo anno bisogna dire che sta facendo anche di più di quello che uno straniero fa in Italia il primo anno, perché se guardiamo tanti stranieri bravissimi il primo anno qualcuno ha anche toppato, per cui sta facendo un grandissimo anno. No, Lukaku sta facendo una stagione da record, se voi guardate i primi anni, adesso non ricordo più a memoria le statistiche, dovrò rispolverarle in vista di domani di Spal-Inter, ma insomma c'erano i famosi quattro attaccanti che il primo anno avevano fatto 20 gol in stagione con la maglia dell'Inter, Sosa, Ronaldo e l'altro non me lo ricordo. Ci sono un po' di statistiche interessanti che raccontano anche dal punto di vista strettamente realizzativo quello che Lukaku dà, però la verità è quella che dice Dario, cioè che poi ogni movimento con i compagni, ogni sponda, ogni traccia, ogni scatto, ogni ripartenza, ogni cambio di direzione, qualcosa te lo toglie dal punto di vista della lucidità, no? Delle energie, anche se non te ne accorgi, anche se magari il pubblico da casa non se ne accorge. E quindi ci sono gli attaccanti che giocano, appunto, come dice Dario, per il gol, unicamente per il gol, da area di rigore, va benissimo, che poi quello è importantissimo, e che magari certi allenatori se li prendono così come sono, altri che invece partecipano di più. Dipende molto dal concetto di squadra che intesta l'allenatore. Certo, io continuo a pensare che giocare insieme a Lukaku, se sei Lautaro, se sei Sanchez, se sei il suo compagno di reparto, sia un gran bel lavoro, perché è uno che poi li hanno spostati a metà stagione, li hanno anche un po' allargati, perché forse si erano resi conto che erano diventati un po' prevedibili a un certo punto della stagione, perché erano sempre loro, mancavano alternative, e quindi hanno dovuto salire a gennaio, febbraio, poi se ci fate caso gli hanno un po' cambiato la posizione, li hanno un po' allargati, hanno un po' allargato la coppia, quindi anche loro hanno dovuto utilizzare un po' di tempo per orientarsi meglio, no? Per orientarsi in questa nuova situazione. Certo, Dario, ti volevo un'ultima opinione che è sulla Juventus. Prima io e Pier dicevamo che c'è aria di match point questa sera a Sassuolo, se vince questa partita vabbè, viaggia dritta verso lo scudetto senza altri grandi scogli all'orizzonte. Ma possiamo, secondo te, soddisfacente quanto sta facendo la Juventus oppure no? Ma dico, nell'ultimo mese abbiamo avuto, tra parentesi, la fortuna di vedere una Lazio che si è sciolta, ecco. Però diciamo la Juve è sempre una squadra che ha la miglior squadra del campionato, c'è i migliori cambi, c'è due squadre, non c'è una squadra sola, ce n'è due. Però anche se dal mio punto di vista penso che la Juventus si sia preparata più per la Champions di agosto che per il campionato di giugno, di luglio, credo. Perché certi giocatori sicuramente ci sono certi allenamenti, e sono convinto che la Juve andrà in forma fra una ventina di giorni, la Juve sarà la Juve, per come la vedo io, perché la Juve aveva un vantaggio sullo scudetto, sapeva che... Ti sembra che abbiano caricato dal punto di vista fisico? Per arrivare poi pronti ad agosto? Questo è molto interessante. Per me sì, dal mio punto di vista, da fuori. Credo che la Juve non è stata brillante come le altre partite, nelle prime due o tre partite aveva in difficoltà, tutti lenti, e sono convinto che la Juve tra un paio di settimane giocherà molto molto meglio. Grazie. Questo è una speranza per i tifosi della Juve ed è una teoria molto interessante, e ci può stare, perché insomma lo sappiamo, la Juve è una squadra che viene tantissimi scudetti consecutivi, lo scudetto ovviamente ci tiene, poi lo vuole vincere, però non c'è dubbio che ad agosto si gioca la stagione, insomma anche Sarri è stato preso per fare un salto di qualità in Europa, quindi è possibile che abbiano caricato dal punto di vista fisico. Quello che è certo è che la Juve delle ultime uscite non è brillante. Ad oggi la Juve è una squadra che secondo me non ha migliorato la qualità del suo gioco, sinceramente, e rispetto alla Juve di Allegri però ha qualche defaillance in più in termini proprio di carattere, di concentrazione, di attenzione. Di cinismo. Detto questo, è ancora in grado di poter vincere il campionato e di poter fare una grande Champions, per cui insomma c'è ancora tutto lo spazio per cambiare questa stagione. Grazie Dario, ciao, a presto. Ciao. Allora, adesso abbiamo la borsa, poi ascoltatori 800240024 numero verde. Ma di che parliamo? È l'anno della Dea, Dio ha incominciato a lavorare nel modo giusto, finalmente. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 0024 800 24 0024 Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Achille, buongiorno. Ah, buongiorno a lei. Allora, io volevo discutere sul trappello finanziario, no? Che è così descritto perfettamente il signor Pardo. Dire che, aggiungere che queste non sono disposizioni filosofiche. In questo modo si falsa la regolarità delle competizioni, perché è chiaro che in questo caso i broglioni, i truffatori riescono ad avere la meglio. E così come è evidente che da una multa da 10 milioni se lei mi permette a Manchester City, come se un giudice italiano desse una multa di 50 euro a uno di quei truffatori con le campanelle che fanno i trucchi dopo che è stato già condannato un paio di volte. Qui i campionati, finisco, la gente come me, i veri sportivi, si sentono anche loro presi in giro, perché qui ci sono società che hanno i bilanci in regola e ci sono società che hanno buchi che non finiscono e le federazioni nazionali, anche quelle italiane, non intervengono, nessuno fa niente. Poi quando falliscono con 400 milioni e interviene la magistratura ordinaria, allora intervengono le federazioni. Guardi, io le faccio rispondere da Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, che siamo riusciti a rintracciare. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie. Rispondi tu. Buongiorno intanto anche al tuo ascoltatore, che dice delle cose giuste, ma bisogna fare un piccolo passo indietro. Quando sono entrati i soldi catarioti, i soldi arabi nel calcio, e si era già capito che comunque avrebbero immesso una quantità di denaro enorme, quel denaro al sistema calcio serviva e quindi sono stati accolti a braccia aperte, creando praticamente due società dal nulla, non perché non esistesse prima il Paris Saint-Germain o il Manchester City, ma perché non avevano mai avuto, diciamo, lo spolvero che poi hanno avuto negli anni successivi. È chiaro che questi soldi da qualche parte dovevano arrivare, quindi si è chiuso un occhio, si è accettato un meccanismo che chiaramente è un meccanismo sbagliato, che fa saltare alcune regole, e adesso però ci siamo ritrovati in un periodo anche post-Covid in cui immaginare il Manchester City che non partecipa per due anni alle competizioni europee, e la stessa cosa può avvenire anche al Paris Saint-Germain, sarebbe un altro danno enorme, e quindi la toppa diventa peggio del buco. Bravissimo. Perché poi la scelta di fare di dare 10 milioni di euro di pena, insomma di multa, obiettivamente fa sorridere. Bisogna rimettere le mani su tutto il meccanismo. Bisogna rimettere le mani sul meccanismo, anche perché non è fisiologico, non è nemmeno sano rinunciare a dei soldi che vengono immessi nel sistema anche a beneficio degli altri club. Bisogna considerare anche questo, Andrea. Esattamente sì, però poi bisogna dare la possibilità eventualmente a chi ha delle situazioni solide e che può investire nel proprio club. Facciamo un esempio italiano chiaro, che è quello dell'Inter, poi magari non è detto che Suning abbia voglia o intenzione di buttare centinaia di milioni nel club, però ne ha la possibilità di farlo, e allora bisogna quantomeno rivedere per altri club la stessa possibilità di investimento, chiaro, perché altrimenti si creano due situazioni diverse, e non è giusto. Certo, l'Inter è passata sotto le forche caudine del fair play finanziario, come ci ricordiamo, insieme alla Roma e al Milan stesso. Adesso è sotto gioco di Conte, invece. Cresce ogni giorno il numero dei partenti. Oggi leggevo sulla Gazzetta dello Sport, sul tuo giornale, addirittura 11. Ogni giorno cresce, chiamala se vuoi aburazione, quella che sì, chiede Conte. Alla fine sembrano i 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Bravo, bravo. Alla fine non ne rimanga nessuno, no, a parte gli scherzi. Però ma questo cosa chiaro vuol dire? Che Conte ha bocciato questa squadra? Che Conte vuole altri giocatori, che Conte è in testa un'altra Inter, che questo anno vissuto all'interno anche del club, perché Conte ha capito anche l'ambiente dell'Inter, che devi conoscere per riuscire poi un po' a modificare. Non basta semplicemente essere un grande allenatore o avere un piglio da condottiero per modificare evidentemente un meccanismo dei comportamenti, di una gestione che ha delle radici lontane. Lui, per riuscirci, vuole evidentemente un altro tipo di giocatori con altre mentalità. Io non so se questo sia giusto, non so neanche se tutti gli 11, 10 giocatori di cui Conte si vorrebbe liberare sia poi effettivamente giusto rinunciarci o no, però è la sua idea per poter portare l'Inter a vincere. si sapeva che quando si sceglieva un tecnico come Antonio Conte significava comunque investire moltissimo non soltanto su di lui ma anche sul mercato, perché fa parte di quegli allenatori alla Mourinho che si vogliono far comprare i giocatori che vogliono. No, ma d'altra parte la querella del sul Conte resta, non resta, restano a dispetto dei Santi, però se mi vogliono firmo per altri anni oltre i tre, comunque per cui firmo, insomma sono tutte questioni di mercato. Pierluigi Pardo, hai sentito cosa diceva Andrea? Sono sicuramente questioni di mercato e sono anche questioni, secondo me, premature. Il bilancio della stagione dell'Inter secondo me è positivo. Vediamo come finisce, perché ancora ci sono dei margini sia in campionato ma soprattutto in Europa League. Le occasioni perse sono tante, soprattutto non c'è stata l'evoluzione che era lecito aspettarsi da un allenatore bravo come Conte. Questo va detto, questo è indiscutibile. Poi sì, gli alibi non mancano. Prima parlavo di Sanchez, secondo me sicuramente il fatto di aver fatto tutta la stagione, tutta la parte della stagione con due soli attaccanti, due Esposito, è stato un problema. Qualche episodio non è girato esattamente nel migliore dei modi, però il capo di imputazione secondo me è gennaio-febbraio, l'arrivo di Eriksen, una certa incapacità di evoluzione, o perlomeno lentezza nell'evoluzione e soprattutto nell'inserimento di un giocatore che può piacere di più o di meno, ma è sicuramente un crack potenziale. Sì. Ma la sensazione che mi sono fatto, guarda, non lo so, la condivido con voi l'altra sera sentendolo parlare di Eriksen, in Inghilterra tutto più enjoy, eccetera. La sensazione è che si sia trovato un giocatore troppo morbido per i suoi parametri, per i suoi standard, cioè un giocatore non con la faccia giusta. Questa però è la sensazione che ho avuto, poi ha torto a ragione. Secondo me non è un giocatore che lui ha chiesto, perché chiaramente se fosse stato un giocatore chiesto da lui l'avrebbe trattato, vissuto in maniera differente. È stata un'opportunità per l'Inter, il giocatore resta un giocatore ovviamente importante, Conte ne voleva un altro prototipo, cercava Vidal, cercava un interno di centrocampo di gamba, di strappo, non è Eriksen quel tipo di giocatore. Non credo si possa mettere in discussione il valore tecnico di Eriksen, si può però discutere se magari è adatto o al campionato italiano o semplicemente se è adatto alle idee di Conte all'Inter. Esatto, condivido al 100% e aggiungo, proprio per la stima enorme che ho e che credo sia oggettiva per Antonio Conte, che è un grandissimo allenatore, numeri alla mano, che mi aspettavo qualcosa di più, nel senso che secondo me è un grande allenatore, anche se ti arriva non esattamente il giocatore dei tuoi sogni, però ti arriva un giocatore che comunque ha quelle qualità. Ecco, mi aspettavo una maggiore velocità e una maggiore efficienza nell'inserirlo subito. Poi ci saranno anche le sue responsabilità, per carità, non è che dico. Certo. Però proprio perché lo stimo, Conte, penso che lì doveva essere un po' più veloce, un po' più efficace da subito, no? Nell'adattare qualcosa, magari nel cambiare modulo. Questa cosa si è vista poco. Pier, hai ragione, e anche io la penso come te, però poi se leggiamo la carriera di Conte, anche la carriera dell'ultimo Conte, perché magari a Bari era una cosa diversa, da Arezzo è stata una cosa diversa, 4-2-4, si perde però nella notte dei tempi, il Conte dell'ultimo periodo non è uno che prende, cambia, prova, inventa, cioè non è un fantasioso, non è lo Spalletti di un tempo, per dire, non c'è, peraltro non è neanche più Spalletti adesso, uno che si inventa molte cose, sono diventati allenatori che vogliono i giocatori per la loro idea. Conte è un martello pneumatico che insiste però su uno schema, su un modulo, su una maniera di giocare, e io ce lo vedo poco questo Conte che si mette ad adattare le proprie idee a un acquisto della società che lui peraltro non ha chiesto. Altrimenti si chiamerebbe Allegri. Allegri è sicuramente un giocatore diverso da Conte. No, vabbè. Il prototipo dell'allenatore che si inventa, che si adatta ai giocatori che gli danno, eccetera, quello si chiama Massimiliano Allegri. Ragazzi. Penso che ogni allenatore, stiamo parlando del Gotha, no? Stiamo parlando degli allenatori top che ci sono in giro per l'Europa. Ecco, discutere Antonio Conte mi sembra una follia. No, ma è una però follia. Ognuno in qualsiasi campo della vita ha sempre un margine di miglioramento o delle situazioni in cui non riesce a dare il massimo. Secondo me il margine di miglioramento può essere questo, perché che Conte sia un martello con una mentalità molto precisa, uno che vede i giocatori, li conosce, li motiva, li mette in campo alla grande, questo lo sappiamo bene, e probabilmente il next step, il passetto successivo per diventare ancora più bravo di quanto già è Antonio Conte, è la capacità anche di adattare le squadre a delle situazioni impreviste. Sì, non c'è dubbio che Eriksen non fosse, lui voleva Vidal, ma questo lo sappiamo tutti. Eriksen è tutt'altro che Vidal, cioè è proprio, proprio un'altra roba. Però insomma, ti danno Eriksen, pure Sarri non ha la squadra che corrisponde al 100% alla sua filosofia. Però non penso che gli faccia schifo poter allenare certi giocatori. Quindi un po' di adattamento da questo punto di vista ci vuole. Allegri ce l'ha sempre, ma magari Allegri su altre cose ha il suo piccolo passetto da fare, da migliorare. Però insomma, io qualcosa di più mi aspettavo. È anche vero che ti adatti quando hai una società talmente forte dietro, per cui sei tu che devi adattarti alla società. Cioè Sarri probabilmente molti giocatori della Juve non li vede, però se stai alla Juventus ti adatti a quello che è la Juventus. Probabilmente Conte è arrivato in un Inter rivoluzionata in cui il suo ruolo, il suo peso specifico, indipendentemente dalla bravura di Conte, Sarri o altri, ma il suo ruolo all'interno dell'Inter è talmente più forte rispetto a quello che magari ha Sarri nella Juve, che lui si può permettere di non adattarsi. Sarri non se lo può permettere. Grazie ragazzi, saluto entrambi. Ciao Pierluigi, ciao Andrea, alla prossima. Ciao Pier, ciao a tutti, ciao Andrea. Allora, traffico e poi vedo un allenatore in linea, non è Sarri, non è Conte, scopriamo chi è dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Non è Sarri, non è Conte, ma il mio amico Attilio Cai, allenatore della Pallacanestro Varese. Ciao Attilio. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao, da interista come valuti la prima stagione di Conte? Posso dire che mi aspettavo un po' di più. Sì, puoi dirlo. Un pochettino, soprattutto come erano le premesse. Poi alla fine invece una fine già vista degli anni precedenti. Non so cosa ci sia, cosa succede a un certo punto, ma... Senti, ci manca sempre qualcosa. Ma in questa disputa filosofica ti prendono un giocatore che non è esattamente perfetto per il tuo basket, ma è forte. Tu che fai? Lo faccio, cerco di nascondergli problematiche e di farlo giocare. Adesso noi abbiamo preso Scola. Appunto, che è un campione. Parlare, sì. È un campione. Però dice sì, però in difesa fa fatica. Ho capito, ma a parte che in attacco fa tantissimo di più di quello che non fa in difesa, ma poi compito anche mio cercare di proteggerlo in difesa, di aiutarlo, di non metterlo in difficoltà contro certi attaccanti più veloci, più dinamici, e quindi devo studiare qualcosa, devo aiutarlo, perché lui aiuta tantissimo la squadra, quindi... Questo senza insegnare poi il mestiere a nessuno, per carità. No, però io guarda, mi ricordo benissimo, tu fai dell'organizzazione, soprattutto difensiva, una delle tue carte vincenti, dell'organizzazione di gruppo, di squadra, eccetera. All'inizio della tua carriera, e io me lo ricordo bene, quando allenavi Oscar, cioè l'attaccante più attaccante di tutti, dicevi, sì, non, magari non difende tanto, però alla fine basta difendere in quattro, poi lui in attacco gioca in sei. Ma poi dopo Carlo, io dicevo, allora quando pensavo al piano partita difensivo, dicevo allora Oscar su chi marca? Chi è il giocatore attaccante meno pericoloso? Qual è quello che fa meno movimento? Qual è quello che sta nell'angolo a aspettare gli scavi? Allora Oscar marca quello e poi gli altri quattro ci aggiustiamo con gli altri. Senti, a proposito di Scola, grande colpo di Varese, anche mediatico, ha acceso le luci comunque sulla tua realtà, sul tuo club. Sì, un campione. Poi come si è approcciato a noi, con i colloqui che abbiamo avuto, cioè ogni colloquio che avevamo l'impressione, sempre di più l'impressione di avere davanti una persona di alto livello. E capisci come mai uno a 40 anni riesce ancora a fare grandi partite come ha fatto lui in Eurolega l'anno scorso, come ha fatto ai campionati del mondo con l'Argentina, perché c'ha passione per quello che fa, oltre ad avere grande qualità di talento, e si sta allenando, Senti. È l'unico giocatore che sta allenando e faccio fatica a dare una risposta a lui quando mi dice: ma gli altri dove sono? Gli italiani dove sono? Fai fatica. No, ma sai, la palestra è chiusa, sai, sono a casa a prepararsi. Però c'ha ragione lui. Sì, leggevo di Datome che quando ha perso l'Eurolega che sognava, quell'estate lì andava a fare 300-400 tiri, un po' di pesi e poi ovviamente in periodo di vacanza, e poi si sentiva meglio. non sentiva più sensi di colpo. Non è un caso, Carlo, dei grandi giocatori, di quello che fanno, non c'è niente di caso. Uno ricostruisce, fa, e questi parliamo soprattutto di grandi persone dal punto di vista mentale, dalla consistenza di te. Riescono a ti danno ogni giorno dimostrazione di quello che sono, di quello che, dove sono arrivati. Senti, c'è ancora moltissima incertezza sulla prossima Serie A, addirittura sul numero dei partecipanti. Cremona non è riuscita a sopravvivere. Roma, vediamo, non si capisce bene quante saranno le contendenti. Non si capisce nemmeno bene quale sarà lo sviluppo della stagione. Come si lavora in queste condizioni e cosa ti aspetti? Non è semplice. Io sono uno che tendenzialmente ha sempre visto il bicchiere mezzo pieno della pallacanestro, sempre di positività. In questo momento devo dire, leggendo anche le motivazioni che hanno portato il presidente Vanoli a abbandonare, a fare un passo indietro, fanno delle riflessioni. Così pure come delle riflessioni fanno fare al fatto che 5-6 squadre interpellate per far partecipare alla 1, quindi veniva regalata alla 1, hanno declinato. Cioè ci sono squadre che spendono soldi, cambiano allenatori, cambiano giocatori durante l'anno per vincere il campionato, quello che hanno fatto l'anno scorso. Poi arriva al 15 giugno e dice: toh, hai avuto questo jolly? E loro dicono: no, grazie, non mi interessa. Fa pensare questo. Sì. E così pure adesso Roma non si sa, speriamo, Torino non si sa, perché se un campionato 14, l'anno scorso è stato il problema il campionato dispari, quest'anno un campionato 14, poi se sei vero con due retrocessioni è pesante. Poi succede che due retrocederanno e altre due o tre che magari durante l'anno faranno spese impreviste per doversi salvare, alla fine dell'anno si troveranno in difficoltà a iscriversi nuovamente, che hanno speso più di quello che dovevano. Non è semplice. No, Carlo. No, è un discorso molto complicato e anche piuttosto preoccupante. Invece, quando compri una squadra? Ma guarda, io per fare come ero giovane, così arrivo a quando, quando ero giovane e c'era mio suocero che aveva il presidente di una scuola di calcio, io dicevo: guarda, quando fa un po' di anni finisco la carriera, c'è qualche squadra della provincia, tu sai di cosa parlo, del Vigevano Calcio. Sì, mi ero messo in testa che volevo comprare il Vigevano Calcio. Sì, Ataman invece compra Torino con i suoi soci. Ataman è un genio. Ah. No, ma nel senso buono, a parte che è un amico, lo conosco e quindi sono di parte, però è uno attivo, è uno creativo, è uno che ha tanti amici e tante conoscenze, si dà da fare e riesce sempre a trovare quelle, le carte giuste, le situazioni giuste. Quindi valuti di buon occhio l'operazione. Perché no? No, si tratta di capire qual è il gruppo, quali sono. Torino è stata una trappola per molti, Attilio, perché sembrava tornata, poi è di nuovo sparita, poi adesso vuole tornare un'altra volta. Cioè, ci auguriamo tutti che Atlan possa funzionare, oltre che come grande allenatore, e quest'anno con l'Efes stava dominando l'Eurolega. Esatto. Anche caro, un gruppo di alle spalle importante, perché quell'agenzia è un'agenzia importante. Poi dice: abbiamo letto che manca un nome che sarà una sorpresa per tutti noi italiani. Aspettiamo con grande fiducia, mio caro. Ciao Attilio, grazie. Importante, ciao. Quindi anche economicamente era interessante. Grazie davvero, buon lavoro Attilio. Grazie Carlo, grazie la chiamata, buona continuazione. Grazie Attilio Caio, noi ci fermiamo qui. Filippo Aureggi in regia, Anita Panizza oggi in assistenza, Claudio Schiattone in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.